Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Mediamente in una tonnellata di schede elettroniche avviate, diciamo così, alla rottamazione ci sono circa 10.000 euro di materiali tra metalli più o meno preziosi, terre rare, eccetera, eccetera. Ci sono oro, argento e rame e altri elementi meno noti ai non addetti ai lavori, ma che sono anche più preziosi dell'oro, come per esempio il tantalio. Alcuni di questi elementi sono così rari che li abbiamo già quasi del tutto esauriti, al punto che non c'è quasi alternativa se non andare a prenderli appunto dalle carcasse dei vecchi apparati elettronici. Per questa ragione, da alcuni anni è stato coniato il concetto di urban mining, cioè di miniera urbana, ed è in costante crescita l'interesse per nuovi processi e nuove soluzioni che permettano appunto di sfruttare pienamente questi giacimenti postmoderni di metalli preziosi. Ebbene, in questa partita c'è anche l'ENEA, l'Agenzia Italiana per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, una delle principali strutture di ricerca del paese. Ci sono delle novità in questo campo di cui parliamo con Danilo Fontana, del laboratorio Eco Innovazione dei sistemi produttivi dell'unità tecnica tecnologie ambientali dell'ENEA. Buonasera Fontana. Buonasera. Allora, qual è questa novità che avete presentato nei giorni scorsi anche in Cina al China Italy Green Exchange? Dunque, è il brevetto di un macchinario che consentirà di ottimizzare le operazioni di recupero dei materiali preziosi dalle schede elettroniche provenienti dai rifiuti, dai RAE. Quindi abbiamo un prototipo di macchinario industriale, tutt'altro che una ricerca teorica, no? Sì, quello che abbiamo presentato lì in Cina, che ha già citato, è questa tecnologia che sarà il cuore di un impianto pilota che noi abbiamo battezzato Romeo, un acronimo che sta per Recycling of Metals by Hydrometallurgy. Questo impianto Romeo che stiamo per realizzare nel nostro centro di ricerca qui a Roma, del centro di ricerca Casaccia, per testarne le potenzialità industriali. Ecco, che cosa ci può dire di questo nuovo processo? Cioè, che cosa cambia rispetto alle procedure che comunque già esistono, in qualche misura vengono applicate per estrarre, per ricavare questi metalli preziosi dalle schede elettroniche? Dunque sì, attualmente il grosso di queste lavorazioni vengono fatte attraverso impianti pirometallurgici di grandi dimensioni, come ad esempio impianti da 250.000 tonnellate anno in Belgio. In Belgio, nel nord Europa. Ecco, pirometallurgici cosa vuol dire? Significa che praticamente lo step principale è il bruciare questi rifiuti in un grande forno convertitore. Perfetto. Da questo forno si ricavano grossi lingotti di rame che inglobano i metalli preziosi ed una scoria che contiene tutti gli altri elementi. Ora, questi lingotti e questa scoria devono essere trattati ulteriormente per recuperare, separare e purificare tutti gli altri materiali. Tutti gli altri materiali. Quindi si bruciano questi oggetti, una parte andrà per aria sotto forma di fumi, di quello che resta della parte solida sono delle scorie non meglio identificate e questa massa di metalli però sostanzialmente tutti mescolati fra loro. Invece il vostro processo come funziona? Dunque, questa, diciamo, l'alternativa a questo processo, che in, per alcuni aspetti è anche complementare, è l'idrometallurgia, cioè è la combinazione di tecniche separative ad umido che sono particolarmente indicate per separare selettivamente alcuni elementi e che quindi particolarmente indicata per questi elementi ad elevato valore aggiunto, terre rare, gallio, germanio, oro, cioè, eccetera. Cioè, qui voi usate una tecnologia diversa, anche qui non è che sia stata inventata da voi, diciamo, questa branca idrometallurgia, ma in pratica con degli acidi o degli altri reagenti voi togliete un elemento alla volta e così riuscite a tirarli fuori, o almeno quasi penso, insomma, e riuscite così a separarli bene, sciogliendoli per esempio uno alla volta con un acido diverso, ho capito, più o meno. Più o meno, diciamo, il concetto è quello, riusciamo a separarli selettivamente uno dopo l'altro con vari processi chimici. D'accordo. Ecco, perché è preferibile questo? Intanto perché separiamo tutti i metalli, ma poi mi pare di capire che anche la scala industriale potrebbe essere un po' più piccola rispetto a quella che abbiamo citato inizialmente, no? Decisamente, perché il processo che citavo prima, la pirometallurgia, per essere sostenibile deve lavorare immense quantità di materiali che spesso non sono nemmeno disponibili solo nell'ambito nazionale, ma devono andare a reperire anche in aree geografiche distanti dagli impianti. L'idea nostra è quella di valorizzare questo tipo di rifiuto sul territorio con impianti di piccole dimensioni, gestibili tra virgolette anche a livello familiare, insomma. Ecco, addirittura, è molto interessante. Ecco, e lì alla Casaccia quindi si potrà vedere un primo di questi potenziali impianti di gestione dei RAE a livello familiare? Sì, Stiamo per realizzare praticamente questo impianto che io l'avevo nominato prima, perché abbiamo battezzato Romeo, sì. Che diciamo, avrà come cuore questo prototipo, che è il frutto di questo nostro recente brevetto, che ci consentirà di testare le potenzialità industriali di questa nostra tecnologia. E quanto trattate al giorno? Questo è dimensionato per lavorare su 100-150 kg al giorno. E poi se consideriamo la proporzione che dicevamo in apertura, sono 1.500 euro di metalli preziosi, più o meno, no? Esatto, lì dentro. Certo, quindi, insomma, certo. Bene, grazie a Danilo Fontana. Perfetto, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.